sia usato questa metafora, le prossime settimane ci diranno se è un'OPA ostile o se è un'OPA non ostile, però sta di fatto che insomma lei ha iniziato queste primarie come, diciamo, candidata di un piccolissimo partito Italia Viva e poi piano piano si è allargata e ha in qualche modo infiltrato la comunità dei democratici, perché pezzi importanti, perché poi ad ogni dirigente naturalmente corrisponde un pezzo di partito e anche un pezzo di base, quindi ha, diciamo, portato con sé pezzi importanti del partito, rendendo quella che sembrava una sfida asimmetrica una sfida del tutto aperta e creando un gigantesco problema politico al Partito Democratico. Più in generale, appunto, questa scelta di dirigenti del PD che apertamente dicono di sostenere Conti, che impressione ti ha fatto? Per chi, come insomma, come noi, segue da tanto tempo le elezioni, anche quelle locali, le primarie, è un fatto in queste proporzioni senza precedenti, nel senso che è ovvio che il sostegno a un candidato non del tuo partito viola una sorta di, come posso dire, patto etico interno alla comunità. Però forse bisogna anche interrogarsi sulle ragioni che hanno portato tanti a, diciamo, a non rispettare gli ordini di scuderia. È probabile che non siano stati fatti bene i compiti a casa nella fase precedente, perché di solito prima, dentro la propria comunità e il proprio partito, si trova una soluzione. Si è pasticciato molto per mesi, più che sulla politica, su, come dire, destini personali e biografie politiche, quasi più ripicche personali, insomma, che grandi differenze politiche, e poi alla fine il tappo, come dire, è saltato in questa maniera qua, ecco. Isabella Conti ha un passato all'interno del Partito Democratico, c'è chi, anche, come dire, riecheggiando un po' vicende nazionali che riguardano invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi, sostiene insomma che anche nel Partito Democratico di Bologna non si sia mai chiarita bene la presenza di renziani che sono rimasti. Tu sei d'accordo? Ma sì, c'è in parte anche questo elemento, nel senso che Renzi a un certo punto, dopo aver fatto il segretario, dopo essere stato l'uomo del 40%, ha fatto la scissione, quindi è inevitabile che in una comunità come quella del PD rimanesse una parte della base e del gruppo dirigente che in qualche modo lì vicino si sentisse, per quanto poi è stata consumata la frattura. Però in questo caso, ecco, sì, come dire, è uno dei temi sul campo, ma non mi sembra onestamente il principale in questo momento per il PD. Ecco, il principale è proprio la figura sfidante di questa candidatura di Isabella Conti, che è sfidante proprio perché è complicata, è complessa, nel senso che lei è renziana, ma è al tempo stesso, come sai bene, più, diciamo, radicale su alcuni temi, a partire dall'ambientalismo. Come dire, è una candidatura complicata, ecco, da affrontare, perché appunto ha diverse, porta delle contraddizioni, ma che in questo momento lei sta giocando a suo favore. La libertà di voto che nelle scorse settimane appunto qualcuno dei dirigenti del PD aveva invocato e adesso si concretizza con gli aperti sostegni, solitamente la libertà di voto si dà su temi etici, no? Di coscienza, non sulla candidatura. A livello di immagine, questa scelta che conseguenze potrebbe avere per il PD? Io questo l'ho anche scritto, cioè se dovesse vincere le primarie Matteo Lepore, con tutto che poi non sempre il patto delle primarie va così come è stato alle comunali, e questo vale per tutto, no? Vale per chi eventualmente non sosterrebbe Isabella Conti o viceversa non sosterrebbe Matteo Lepore. Però diciamo così, se Matteo Lepore dovesse vincere le primarie, il PD rischia di fare un capolavoro, perché porta con sé un'area che altrimenti non avrebbe avuto, però è un capolavoro che potrà raggiungere a un prezzo altissimo, perché se viceversa vince lei, beh, insomma, il PD rischia di rompersi l'osso del collo, perché riesce nel miracolo di, come dire, di avere come candidato in una delle città comunque più importanti dal punto di vista politico e simbolico per il centro-sinistra in Italia, di avere alla fine della fiera un candidato messo lì da Matteo Renzi, insomma, dal grande nemico. Quindi è un po' un gioco ad altissimo rischio, ecco. Però ormai non lo controllano più, ecco. Ti faccio un'ultima domanda che riecheggia un po' quello che sta succedendo a livello nazionale in altri territori dove si terranno le elezioni amministrative. L'alleanza col Movimento 5 Stelle potrà venire avanti sia che il candidato sia Matteo Lepore che Isabella Conti? Ma in teoria no, nel senso che il Movimento 5 Stelle potrebbe andare serenamente su Matteo Lepore, molto meno serenamente su Isabella Conti, per ragioni che, come dire, inutile spiegare. Però la vera domanda è: chi è il Movimento 5 Stelle oggi a Bologna e nella realtà metropolitana? Perché qui non siamo nella situazione di altre città, siamo nella situazione in cui qui il Movimento 5 Stelle è iniziato, è uno dei posti dove ha messo le radici più solide in passato, e poi è anche uno dei posti Renzi, dove ha preso le batoste più tremende, sia a livello di espulsioni, sia a livello di risultati elettorali. Quindi in questo momento la comunità dei 5 Stelle a Bologna, e aggiungo anche in Emilia-Romagna, è una comunità molto dispersa. Insomma, non so se ti ricordi, ma addirittura c'è stato l'imbarazzo che quando si è riunito il tavolo della coalizione, il PD non sapeva chi invitare come rappresentante dei 5 Stelle. E in questa fase i 5 Stelle si sono messi un po' volutamente nell'ombra, a ruota, cioè fate i vostri giochi e poi arriveremo noi. È chiaro che però quel tema che poni lì c'è, però è un tema più di classi dirigenti che di base, nel senso che quel che resta del Movimento 5 Stelle, che come ti dicevo la Conti sicuramente dal punto di vista politico è più lontana dai 5 Stelle, ma poi ha queste battaglie ambientaliste che di sicuro la rendono più vicina, quindi è un po' complicato, ecco.